uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente, niente, niente, niente, niente, niente. Oh na na na, oh na na na. Troppe caramelle dagli sconosciuti. Io ho detto al mio cervello con bananti saluti, ci vediamo presto. Io resto tra pecorino e pecorino fresco. Ho fatto tanto, tanto sesso con me stesso e con lei. Con loro ho pagato per avere amore, ho pagato per avere l'odio, ho parlato. A un cratere lo voglio riempire, posso farlo solo senza mentire. Puzzo di verità, non bevo più cazzate. Anche mia madre alle ossa spezzate ha preso mazzate come un lottatore. Anche lei ha pagato per avere l'amore con la A maiuscola, da animali con la A minuscola. Parlo dell'anaconda che si mangia il gorilla perché vuole una scintilla, ma il gorilla non si lascia mangiare, se scappando ha imparato a pensare. Parlo dell'anaconda che si mangia il gorilla perché vuole una scintilla, ma il gorilla non si lascia mangiare, se scappando ha imparato a pensare. Catalogati in base a razza e colore, siamo animali con problemi di cuore, dottore. Quanto costa il tuo calore? Sono depresso e viziato, un tipico italiano col dito medio alzato, ore ed ore sentendomi migliore, ma no, non lo sono e non lo sono mai stato. Sono il peggiore, sono sempre